blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. C'è stato un lancio di una bomba carta che è partita dal settore dei tifosi della Juventus verso il settore dove c'erano tifosi del Torino e ha portato questa bomba carta esplosa, poi naturalmente una volta arrivata ha fatto esplodere i seggiolini e da lì sono, come dire, iniziati problemi seri per 9 persone, ha portato al ferimento proprio di 9 tifosi del Torino che sono stati trasportati in 2 ospedali diversi della città. È rinomato il fatto di quanto poco io sia interessato al gioco del calcio, di quanto poco ne abbia competenza, calcio e suoi annessi. Poi questa mattina non posso che pormi una domanda che probabilmente si porrà anche quella fetta di umanità che come me è appassionata probabilmente di altre cose, rispetta profondamente la passione calcistica, il piacere dello sport, ma deve necessariamente farsi una riflessione sul fatto che puntualmente riaccadano episodi come quello che questa mattina riempie le cronache di tutti i giornali, accaduto nel derby fra Torino e la squadra, diciamo, della Juventus. Un episodio che naturalmente non si spiega perché tutte le rare volte di cui mi sono occupato di fatti del genere mi sembrava ci fosse sempre qualcuno che mi diceva che erano state strette le catene di sorveglianza, erano stati presi dei provvedimenti, c'era un maggior controllo, si cercava di fare in modo che perlomeno se tensioni ci siano, che sono fisiologicamente intollerabili ma sembra impossibilitate ad essere evitate, avvenivano al di fuori dello stadio. Beh, però questa volta qualcuno si è portato una bomba carta all'interno di uno stadio e gliel'ha fatta esplodere, a parte poi gli episodi di assalto ai pullman dei giocatori e altri episodi di cui parleremo questa mattina. Le cose sono due: o qualcuno ci prende in giro, che in realtà il calcio questo è, perlomeno in Italia, non può essere nulla di diverso, dobbiamo essere pronti che come corollario a quello che è l'aspetto sportivo, l'aspetto agonistico, esista un sottoprodotto di sport che sono le battaglie urbane fatte dai tifosi, che sono comunque un elemento probabilmente insopprimibile di quello che è perlomeno il calcio come concepito alle nostre latitudini. Ci si domanda oggi su tanti giornali, persone banalmente appassionate di calcio, come mai qualsiasi cittadino che oggi va a una partita viene perquisito addirittura dentro le mutande, non si può portare bottiglie, non si può portare nulla, perché si portano dentro oggetti capaci di creare scompigli del genere? C'è anche la risposta: perché di necessità si fa virtù, si distribuisce l'onere della bomba carta tra più persone, chi porta un po' di polvere in tasca, che ne porta un altro po', si prende il cartoccio di un giornale, l'innesco, magari se lo metto una donna addosso, visto che in molti stadi esiste una minor possibilità di fare perquisizioni corporali alle donne perché c'è meno personale femminile. Quindi, come fosse una vera e propria associazione delinquere, un gruppo terroristico, la tifoseria s'organizza per fare casino. E questo perché? 800240024, vediamo se qualcuno questa mattina mi dà elementi di riflessione. Questa è l'esplosione della bomba carta. Sembra impossibile che qualcuno abbia ancora voglia o abbia voglia in momenti così critici, così particolari, di così generalizzata angoscia nel nostro paese, di attrezzarsi per andare a far casino allo stadio. Quando ci si guarda intorno e si vedono tragedie ovunque, si vedono morti, si vedono devastazioni, si vede angoscia, si vede miseria, ma per qualcuno la vita va avanti lo stesso, questo potrebbe renderci allegri, ma va avanti lo stesso e quindi si continua lo stesso a unire all'idea della partita anche l'idea di andare a fare casino. Quando il pullman della Juventus, provenendo da via Filadelfia, ha svoltato per entrare allo Stadio Olimpico, è stato di fatto accompagnato, circondato da centinaia di tifosi, anche se chiamare tifosi è comunque molto difficile, che lo hanno di fatto circondato e colpito con oggetti contundenti come pietre, come bottiglie lanciate. Una di queste ha rotto un vetro, ha sfondato un vetro del pullman della Juventus, che quando si è avvicinato per entrare poi allo Stadio Olimpico è stato anche preso di mira da dei petardi che sono scoppiati sotto il pullman, creando anche un effetto rimbombo e tanti momenti di tensione. Cos'è successo? Di fatto il cordone degli steward, che era stato previsto, non è riuscito a contenere. 800 24 00 24, a fronte di questi argomenti anche le cronache diventano ripetitive, anche le frasi e le parole di passo sembrano superflue, anche la difficoltà di raccontarli sembra, si ha l'impressione di dire sempre le stesse cose, come se fosse una ricorrenza, come se fosse una festa paesana, come se fosse una processione, come se fosse uno di quei rituali collettivi dei quali non si può fare a meno. Perché? Perché no, sembra che il mondo si fermi. Qualcuno già mi ha risposto via SMS: perché la tifoseria è fatta di esasperati testosteroni in branco. Nicoletti, non è il calcio, è l'impunità italiana. Quindi ci sono due luoghi comuni, che comunque esistano dei necessari sfogatori dell'umanità, e quando l'umanità non è impegnata in guerre civili, non è impegnata nel gestire invasioni, nel approvvigionarsi con le proprie mani e le proprie unghie i mezzi di sussistenza, va a fare casino e si scanna agli stadi. Può essere una risposta, oppure il fatto che sia un malcostume generale, che nel nostro paese esista l'idea che qualunque cosa possa essere fatta. Oggi Michele Brambilla nella stampa di Torino racconta un episodio, dice: sono stato a accompagnare mio figlio a una partita tra ragazzi, come è entrato in campo un ragazzo di colore, subito gli hanno detto vattene a casa, lo vieni a fare qui. L'arbitro ha sentito, naturalmente ha espulso il giocatore che l'ha detto, ma non sarebbe accaduto nulla se non i familiari, i genitori dell'espulso hanno cominciato a inveire contro l'arbitro. Perché? Perché ritenevano illecito e inopportuno quell'intervento. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Posso parlare? Sì, velocemente. Ecco, sì, semplicemente queste cose accadono perché c'è quasi un silenzio interessato da parte delle società di calcio e di chi dovrebbe governare e decidere che le frange di tipo organizzato vanno tolte, e le società di calcio non andare sotto schiaffo di queste persone. Perché questo, guardi, io per quanto sono incompetente, è un vecchio problema, sempre questo l'ho detto. Le tifoserie sono funzionali alle società di calcio, quindi alla fine c'è una sorta di ricatto, poi questi fanno casino, fanno annullare le partite, quindi devono gestire comunque questa sorta di massa che è un potere che assomiglia, non so, alla gestione mafiosa del territorio, se esattamente è così. Infatti non dovrebbe accadere così, basta, tanto se sono pochi, se come dicono sono poche persone, pochi stupidi, pochi delinquenti, intervengano, tanto sono identificabili, no? E si restituiscano le curve, come diceva Allegri, l'allenatore dell'evento di ieri sera, alle famiglie che vadano a vedere la partita in serenità. Se oggi lo leggo in molti giornali: si restituisca il gioco del calcio, le famiglie vogliono andare a vedere le partite. Probabilmente chi va a fare casino, a fare disastri, a compiere aggressione agli stadi, sono persone che la famiglia lasciano a casa, o probabilmente hanno un concetto diverso della famiglia. Marco Tardelli, buongiorno. Ciao, buongiorno. Marco Tardelli fa parte della leggenda del calcio italiano, e lo chiamo in quanto persona amica che conosco, al di là qualifiche calcistiche che io non ho. Però Marco, è possibile secondo te dire qualcosa che non sia una banalità di fronte a episodi del genere? Perché io le poche volte che me ne occupo, essendo del tutto profano, alla fine sento dire sempre esattamente le stesse cose. Sono 50 anni che succedono le stesse cose, 50 anni che si dicono le stesse cose, perché non c'è mai stata la volontà di poter mettere fuori questi personaggi quasi criminali, anzi criminali, perché uno che va con la bomba carta allo stadio e tira la bomba carta è un criminale. Però io sono d'accordo con Brambilla quando dice che le società sono abbastanza conniventi, sono conniventi con questi ultra, perché hanno paura, sono ricattate e non si riuscirà mai a fare niente se non ci sarà aiuto, come è capitato. Tra l'altro io voglio salvare Lotito, perché Lotito è uno fatto veramente contro gli ultra, ha lottato, ha rischiato, ha pagato di persona quello che possono avergli fatto, eccetera, ma è andato avanti per la sua strada e è riuscito in parte, perlomeno per quello che poteva fare lui, a risolvere questo problema. Allora, se è stato possibile, diciamo, in certe parti del nostro paese, perché non diventa una regola per tutti? Perché poi ogni volta vedi il ministro degli interni dice complimenti alle forze dell'ordine che sono intervenute, qualcun altro dice sì, intervenute, ma perché sono entrate le bombe dentro agli stadi? C'è sempre qualche meccanismo. Questo c'è il problema degli stadi anche, perché per esempio la Juventus si è fatto uno stadio nuovo dove impegna credo circa 2 milioni di euro nella sicurezza, dove ha gestito e educato gli steward a fare determinate cose. Ci vogliono soldi, ci vuole un impegno e voglia di farlo. Però fammi capire, Marco, questo è importante, è una cosa che non conoscevo. Esiste una sorta di architettura degli stadi ormai passata, non più adeguata all'escalation che c'è stata nel calcio, quindi è come costruire un supercarcere, un moderno stadio deve tenere conto che esistano persone del genere. Assolutamente sì, perché in Inghilterra per esempio ci sono degli stadi che hanno il carcere dentro, cioè non è proprio il carcere, ma sono... C'è una cella di sicurezza dentro lo stadio. Celle di sicurezza, dentro delle celle diciamo, di sicurezza no, insomma sono delle celle dove vengono anche a volte presi quelli che fanno confusione, che non esiste fra l'altro, perché lì se c'è uno steward di 70 anni riesce a prendere un ragazzo di 18 anni e portarlo fuori dallo stadio. Perché c'è un rispetto verso questi stewards, ma in Italia non manca assolutamente quella cosa, cioè gli stewards sono persone normali che vanno offese, come viene sempre fatto da tutte le parti. E poi ha detto bene un radioascoltatore che ho sentito, che ha mandato un sms dove dice che è l'impunità che manca, cioè l'impunità, se l'Italia non continua a essere così potremo fare tutto quindi non c'è sanzione, non c'è sanzione che scoraggia il tifoso, nemmeno l'allontanamento dagli stadi, nemmeno... Esiste il DASPO, ma il DASPO, cioè, hanno preso un tifoso che era stato daspato diciamo, e dopo 3 secondi era lì a fare altre cose. Quindi anche il DASPO diciamo, è una sanzione di tipo formale, ma è difficile poi controllare tutti quelli che sono stati diciamo allontanati, è impossibile. Cioè, non devono mettere più piede nello stadio, in qualsiasi manifestazione sportiva non ci devono più entrare, perché uno che va allo stadio a fare queste cose non ha voglia di andare allo stadio. Ha voglia di fare casino. Fermiamoci solo un istante, Marco, che mando il traffico, solo un istante e poi riprendo con te. Interessante questo, in realtà bisogna avere il coraggio di dire non siamo tutti uguali, ci sono persone a cui va interdetto l'accesso agli stadi, ma interdetto in maniera totale, generale, fisico, sempre, non devono venire perché il loro sport è fomentare il casino negli stadi. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Questi sono gli spogliatoi dello stadio Atleti Azzurri d'Italia. In questo corridoio si è scatenata una rissa incredibile a fine partita, come abbiamo scoperto anche dalle dichiarazioni, dalle interviste post partita, tra i giocatori dell'Atalanta e quelli dell'Empoli, in particolare tra Denis e Tonelli. Questo è lo spogliatoio dell'Atalanta. Più avanti, a 10 metri, c'è lo spogliatoio dell'Empoli, lo possiamo anche vedere. Secondo quanto ricostruito, Cigarini e Denis hanno bussato alla porta dello spogliatoio dell'Empoli per chiedere di scambiare le maglie, invece appena è stata aperta questa porta, Denis ha rifilato un pugno a Tonelli. Taglio allo zigomo per Tonelli e poi lì si è scatenata una rissa dove sono stati coinvolti 8-0-0-24. Sta cambiando la situazione generale, l'humus di una partita di calcio. Cosa succede? Si fanno gli agguati negli spogliatoi, si spaccano la faccia i giocatori tra loro. Marco Tardelli, questo è un episodio altrettanto grave secondo te? Molto grave. Secondo me anche più grave dell'altro, perché se gli addetti ai lavori cominciano a fare così, allora gli altri si sentono in dovere. Ma non ti è mai accaduto a te di menarti negli spogliatoi con altri giocatori? Diciamo che mi è accaduto magari di dare una gomitata, di dare un pugno. Cioè si può litigare, chiaro, si può litigare. Assolutamente, litigare nel sottopassaggio, ma non mi ricordo di aver mai fatto a pugni nel sottopassaggio. Anche questo qualcuno. È proprio un agguato, non è due che litigano e poi vanno alle mani. È un agguato. Però voglio dirti che ieri sera c'è stata una smentita, cioè una smentita. Macarone, che è il capitano dell'Empoli, ha parlato di Cigarini e Dennis in un'intervista. Poi la sera Cigarini ha telefonato a Macarone dicendo che lui non c'entrava niente, che si scusava, ma non è. Beh, come a scuola, vedi, come a scuola quando beccano, sì, due farabotti. No, ma non è molto chiaro, non è molto chiaro, perché Macarone ha visto Cigarini, Cigarini dice che lui non c'era, si scusa che non c'era, vuol dire che no. C'è qualcosa che non va. Comunque lui lo zigomo rotto ce l'ha avuto, non è che ha sbattuto, sì, che ha sbattuto contro lui. Assolutamente, no, è accaduto questo fatto. Fra l'altro un dirigente dell'Atalanta, che poteva certamente chiedere scusa, ha confermato il fatto, poteva chiedere scusa, invece ha detto che è un bravo ragazzo, che va a fare beneficenza, insomma, poi va a dare un pugno agli altri. Insomma, quando uno viene beccato a fare qualcosa, c'è sempre un passato di beneficenza, bravo ragazzo. Sì, poi poteva stare bene zitto. Senti, qualcuno mi scrive dicendo: tu hai detto le famiglie al calcio, ma pare che ci sia stata l'immagine di un tifoso che lancia un sasso contro un bus della Juventus con un bambino in braccio, cioè portava bambino e San Pietrino assieme alla partita. Quando c'è stato il pullman che passava in mezzo alla folla di tifosi, se li vogliamo chiamare, c'erano anche dei ragazzini piccoli, e sicuramente i ragazzini piccoli non vanno allo stadio da soli, erano accompagnati dai genitori, dal genitore perlomeno, che picchiava nel pullman, e il bimbo picchiava nel pullman, anche lui è abbastanza normale. Vabbè, un bel passatempo per educare i ragazzini, diciamo, sì, appunto, andiamo a tirare i sassi col papà. Un attimo, è solo questo vero problema. Mattia, buongiorno. Mattia. Salve, sì, chiamavo appunto, stavo ascoltando la trasmissione perché ho frequentato per 8-9 anni da abbonato in curva, non sono mai stato uno sfegatato, però il discorso di cui si parlava, ho sentito appunto della bomba carta a Torino, non è un problema che viene cioè avviene prima delle partite, durante i controlli, che non vengono beccate queste bombe carta. Molto spesso vengono portate dentro il giorno prima o anche due giorni prima, in quanto quelle che una volta erano chiamate maschere Andreotti, che adesso sono steward, hanno amicizie che per, o tra virgolette amicizia, o per paura, fanno questi favori di far entrare queste cose allo stadio. Ma è ancora più grave, vuol dire che c'è un'organizzazione semiterroristica, infatti, con fiaccheggiatori, scusi, ancora peggio. Infatti, no, io sto solamente documentando quello che ho visto per diversi anni, perché adesso si parla di bombe carta in quanto è successa questa cosa a Torino e sono successi dei feriti, ci sono stati dei feriti, però in tantissime partite vengono lanciate bombe carta, vengono dati i 10-20 mila euro di multa, ma non se ne parla poi ai telegiornali, ovviamente, solo quando c'è il ferito fa notizia, però il fatto che appunto vengono portate dentro molto spesso prima. Beh, per il fatto che siamo... anche, oppure scusi, sì, oppure in stadi, in strutture che sono vecchie e riescono anche a scavalcare tranquillamente, perché ci sono stadi che sono veramente, non solo in categorie minori, ma anche... Quindi ha ragione Tardelli, è anche una questione di strutturare, diciamo, il luogo fisico, la location della partita in maniera più adeguata. Questa mi sorprende molto, il fatto che ci sia proprio un'organizzazione, una premeditazione, la gente a tavolino organizza la bomba, trova il fiancheggiatore che gliela mette dentro. Marco Tardelli, qualcosa del genere ti è mai arrivato? No, io guarda, ti posso raccontare una cosa simpatica, ma è simpatica per noi, ma era altrettanto grave, che noi avevamo un autista alla Juventus, che forse si chiamava Campana, non mi ricordo tanto bene, gli avevamo regalato un casco, che lui guidava il pullman col casco, perché quando siamo usciti da uno stadio italiano, che non sto a Pale, avevano tirato dei sassi una volta, avevano rotto il vetro, avevano colpito in testa, eccetera. Di che anno stai parlando più o meno, così per spiegare? Dei miei periodi, 78, 79, 80. Ma quindi dov'è la novità? Ma tu mi dici che nel 78 si attrezzavano i giocatori della Juventus regalando un casco al loro autista che rischiava la testa. Quindi non è cambiato nulla, stiamo parlando assolutamente di... nulla. Ti dirò che tra l'altro noi si parla di bomba carta, ma tantissimi anni fa, tu ti ricorderai sicuramente, c'era stato un derby Roma-Lazio, dove era morto Paparelli. Col bazooka, certo, hanno lanciato da una curva all'altra, cioè saranno organizzati con armi diciamo pesanti. Ha ragione il nostro ascoltatore, il tuo radioascoltatore, che dice che ci sono conniventi anche le persone, le maschere, come dice lui, lo steward, che sono lì, che devono controllare. perché è impossibile portare un bazooka o una bomba carta dentro, non è possibile. E per questo le strutture andrebbero rinnovate, andrebbero messi gli steward pagati dal club che stanno già. Quindi ancora una volta bisogna fare un passo avanti nella modernizzazione sia degli stadi che delle persone che ci lavorano, devono essere dei professionisti, non degli improvvisati che possono essere anche il punto debole. Filippo, velocemente, Filippo. Buongiorno, Filippo da Padova. Intanto saluto Marco Tardelli e lo ringrazio per le fantastiche notti di Spagna 82. Velocemente, quello che volevo dire io lo riprendo però da Diamanti, il sociologo che faceva vedere come Ilvo Diamanti, sì. Sì, esattamente, in Italia non si tifi solo per la propria squadra, ma bisogna tifare anche contro un'altra squadra. È il caso di quello che è successo a Torino-Juventus, che quindi fa sì che per l'appunto ci siano degli impulsi anche violenti. Ed è ovviamente, c'è sempre, purtroppo lo dico io, me lo dice Diamanti, il fatto che calcio e politica sono molto interconnessi e tanti comportamenti li vediamo in politica, automaticamente li vediamo nel calcio e viceversa. Però se mi consente, Filippo, io nella mia totale abissale e dichiarata ignoranza qualcosa di più l'ho capito questa mattina. Non è che il problema è insolubile, il problema esiste da quando esiste in Italia una accelerazione e è cresciuto anche il mercato attorno al calcio, ma Marco Tardelli ha detto una cosa che non ho mai sentito dire: bisogna costruire stadi nuovi e metterci persone qualificate dentro. Questo potrebbe essere il passo avanti rispetto alle tante parole che si fanno, Marco. Ma questo sarebbe un passo importante. Un altro passo importante sarebbe, ora se leggi i giornali oggi, li hai letti i giornali oggi, ma dove tutti dicono adesso è finita, adesso ci saranno delle misure preventive, adesso, ma è sempre così, questo adesso l'ho sentito 50 anni fa, ma se l'altro giorno è successa una cosa brutta secondo me, che il presidente della Roma ha insultato questi ultras quando hanno esposto degli striscioni contro la madre di Ciro Esposito, sì. Ha insultato questi ultras, gli ultras si sono ribellati, hanno fatto una piazzata davanti allo stadio prima della partita e sono tutti contro questo presidente, che è uno che investe i soldi per questa squadra. Però mi confermi che rappresentano un potere reale, concreto, smuovono interessi. Assolutamente, ma tutti sanno, anche Panza, la donna ha detto, il capo della polizia ha detto che ci sono persone criminali dentro gli ultra che prendono droga, fanno tutto. Ma questo si sa da anni si sa, ma allora... non si è mai fatto niente. Ma se molte società di Serie A, tra l'altro quelle... Poi ci dobbiamo fermare, Marco, poi lo riprendiamo il discorso, perché la sigla se no ti interrompe, è brutto. Intanto ti ringrazio, mi sembra quello che abbiamo detto, almeno per me, un punto di chiarimento in avanti c'è stato. Grazie.